Letture di Radio 24. Il Congresso federale della Lega Nord ha eletto ieri Roberto Maroni come nuovo segretario. Lo hanno votato 609 delegati per alzata di mano, 4 contrari e 1 astenuto. «Lavorerò per unire, devo tutto alla Lega», ha detto l'ex ministro dell'Interno, che ha scaldato la platea con la possibilità di lasciare Roma, il Parlamento e tutte le poltrone romane. Ma oltre ai toni da comizio, il nuovo segretario leghista sa anche di avere di fronte un compito difficile: garantire la sopravvivenza politica del suo partito, recuperando voti e alleanze. Come negli anni 92-93, la politica si è trasformata in un composto fluido, quasi gassoso, in attesa che si solidifichi di nuovo, con nuove caratteristiche. La sola certezza è che fra un anno, dopo le prossime elezioni, la fisionomia dell'Italia pubblica sarà diversa da quella di oggi. Una buona spia dei movimenti in atto nel sistema dei partiti è data dalla svolta avvenuta nella Lega Nord. Ieri, al congresso di Assago, è nata la Lega di Roberto Maroni, che ha il problema di dare un nuovo volto a un partito oggi diviso e in crisi. Per consolidare la sua leadership, Maroni deve difendersi da un doppio attacco, interno ed esterno. All'interno deve tenere a bada i nostalgici del vecchio capo, di Umberto Bossi, che lo aspettano al varco, pronti ad accusarlo di svendere la Padania se cercherà accordi con i partiti romani. All'esterno deve impedire che gli elettori leghisti si facciano tentare dalle sirene antisistema di Beppe Grillo e per questo tiene alta la bandiera, anch'essa antisistema, dell'indipendentismo. Tutto ciò è comprensibile, nel senso che ne è chiara la logica politica. Tuttavia Maroni è anche un leader troppo intelligente e abile per non sapere che non riuscirà a difendere il ruolo della Lega come sindacato territoriale, come assertore degli interessi del nord del paese, se non si sporcherà le mani, cercando intese e accordi elettorali con altri partiti. Potrà anche aspettare che si faccia la nuova legge elettorale, ma dopo non potrà rinviare ancora a lungo la questione delle alleanze. La porta è stretta. Maroni ha il problema di riuscire a normalizzare la Lega, di trasformarla in un normale partito territoriale, come i tanti che esistono in Europa. Una via praticamente obbligata dopo la conclusione della fase rivoluzionario-carismatica dominata da Bossi. Non è però sicuro che quest'opera di normalizzazione sia possibile se Maroni non si rassegnerà a perdere, magari allo scopo di conquistare nuovi e diversi elettori, le componenti più estremiste del movimento. E soprattutto se non sarà disposto a modificare molte posizioni leghiste su temi cruciali. Ad esempio, se e quando una normale dialettica destra-sinistra si ricostituirà nel paese, è probabile che, visti i livelli di tassazione raggiunti, la domanda principale degli elettori di destra, non solo al nord, si concentri sulla riduzione delle tasse. Ma un programma di riduzione fiscale non sarebbe credibile se non fosse accompagnato da una politica di drastica contrazione e razionalizzazione della spesa pubblica, nazionale e locale. Se vorrà essere della partita, la Lega dovrà rinunciare al conservatorismo intransigente che ha per tanto tempo coltivato. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale Il Carroccio tra Po e Baviera, a firma di Angelo Panebianco e pubblicato sul Corriere della Sera di oggi, lunedì 2 luglio.